satelliti e mari, il mio viaggio insieme a lei, il mio viaggio insieme a lei, per la vita è andato già. Cerca sì felicità.